einmal vor. Der Mensch, die Menschheit würde sich in einen ganz reinen seelischen Zustand versetzen. Das heißt, sie würde sterben. Das heißt, es wird zu einer Resonanz kommen. Ich denke aber, dass die Wirkung auf die Welt, auf dieses Plasma, das sich ganz im Geistigen um den Erdball spannt und als die soziale Substanz schlechthin genannt werden kann, dass diese Substanz auch impulsiert werden kann von drei Menschen oder von vier Menschen oder von sieben Menschen oder von 16 Menschen, 21 Menschen, 33 Menschen. Wenn es dem Menschen gegeben ist, diese Erde auf dem geistigen Wege zu verlassen und in den physischen, körperlichen, fürchterlichen Schwierigkeiten und den schlimmen Leiden, die ganz besonders unsere Zeit über die Menschheit hingeworfen hat, wofür hat es denn dann einen Sinn, die äußersten Bemühungen auf das hinzulenken, was doch ganz und gar dem physischen Teil des Menschenwesens zugehört? Dass es gerade für die spirituelle Zukunft des Menschen ja gar keine andere Möglichkeit gibt, als die physische aufzubereiten, dass das eigentliche Geistige entstehen kann. Jedes zukünftige getane Werk ist in viel weiterem Maße eine Schöpfung des Menschen als in jeder Vergangenheit, was den Gang der Evolution dieses Planeten fortsetzt, damit von der Erde aus dasjenige entwickelt werden kann, was nur von der Erde aus entwickelt werden kann. Wir sehen aber auch größere Bewegungen entstehen. Was wird aus so einer Bewegung, aus so einem Impuls werden? Welche ungeheuren Fähigkeiten durch diese Disziplinierung im Menschen entstanden ist? die vor allen Dingen in ihm etwas bewusst haben werden lassen, was man das Selbstbewusstsein nennt, was man das Ich-Bewusstsein des Menschen nennt. Und es heißt ganz besonders, konkret und real, dass jeder Mensch ein Künstler ist. Den Menschen als Künstler zu bezeichnen, weil er einer ist, jeden Menschen als einen Künstler zu bezeichnen, weil er einer ist, weil er ja doch nichts anderes ist als derjenige, der in die Verhältnisse, zum Beispiel in die Stoffeswelt, so eingreift, dass irgendein Produkt zustande kommt, dass irgendeine Gestalt zustande kommt, dass also dieser Mensch als Träger von Fähigkeiten begriffen wird. Die Künstler können machen, was sie wollen. Und dies ist also der nächst zu gestaltende Urstoff. Muss vom Menschen neu gestaltet werden. Vom Souverän neu gestaltet werden. Es sei denn, es sei denn, es sei denn, darüber wollen wir später reden. Oder sagen wir ganz noch viel, viel allgemeiner, das, was der Mensch zu vollziehen hat, ist nach Formen zu suchen. Das heißt, seinen Produkten eine Form abzuringen, die der Form würdig ist, dadurch, dass er sie den anderen zeigt, dass sie also veröffentlicht wird, diese Form, und nicht für sich behalten wird, weiter. Ich habe an dieser Stelle eigentlich das Bedürfnis gehabt, die Frage zu stellen, aber warum pflanzen wir dann noch Bäume? Ist für die Welt zum Rätsel. Das gilt für die Frage, über die Seele auszusagen. Dass dieser große, wollende und strebende Mensch mit dem Versuch, die menschliche Seele in den Mittelpunkt des menschlichen Bewusstseins zu rücken, also ist wieder dieser Anfang von der menschlichen Fähigkeit, mit der Fähigkeit, etwas zu gestalten, es auch den Menschen ganz handfest klar machen, klar zu machen, einfach im Gespräch des Experimentes, dass die erste Gestaltung, die dieser Mensch als Bildhauer ja vollzieht, die Formen seines Denkens sind. Dass die Formen seines Denkens durch das Zusammenwirken der Formen seiner Gefühle mit den Formen seines Denkens zur Sprache impulsiert werden, kennzeichnet ihn als einen Bildhauer des sprachlichen Bereiches. Dass die Stoffe und Kräfte dieser Erde schützen und organisieren kann, dass dieser Planet bis zu seiner Transformation durch das sich transformierende und metamorphosierende Menschenwesen hindurch reicht, bis die Transformation an diesem Planeten selbst stattgefunden hat, so wird eben auch eine genügend große Anzahl von Menschen genügen, die Welt zu verändern. Es ist ja immer so, ich hatte gedacht, ich fasse es vielleicht ein bisschen anders an, aber dann habe ich Sie gesehen und Sie haben mich inspiriert, es so zu äußern, wie ich es jetzt getan habe. Joseph Beius insieme a Richard Rijnvos, probabilmente così, o Rijnvos, non sappiamo bene la pronuncia, anche perché la J o la Ilunga dipende da quale parte proviene del mondo, quindi diamo per buona la pronuncia anglofona. Rijnvos. Seconda parte di 451 frammenti sonori dedicata alla sound art, a quel trattamento, come dicevamo all'inizio, del suono come finalità appunto musicale, se così si può dire, poi l'extra musicale è, come dire, fondante anche di più rispetto appunto a un particolare modo di approcciarsi alle arti sonore, che prevedono anche, come in questo caso, installazioni e performance dirette. Joseph Beius, uno dei più grandi artisti del Novecento, prima dicevamo, anche ricordando l'Italia, ha passato più di una volta qua nei pressi, insomma, italiani, per sia attività artistiche che andavano sempre di pari passo con un forte attivismo antiaccademico. Lui, da accademico anche piuttosto celebrato, se ne andò sbattendo la porta e creando anche la libera università tedesca, proprio per cercare di rompere quelli che erano gli insegnamenti accademici, per aprire possibilità sicuramente di altro tipo, attivo politicamente, anarco-comunista, con tanti riferimenti al situazionismo, all'avanguardia, tra l'altro facendo anche parte appunto di un gruppo celeberrimo di neoavanguardia come quello del Fluxus, ma non solo, un artista a tutto campo, in questo caso ad esempio l'abbiamo sentito dentro Raum, che magari a qualcuno verrà in mente, insomma, qualche posto qua a Bologna, visto che stiamo parlando su vari riferimenti italiani, anche bolognesi. Prima ce l'avevamo con Terry Fox, che tra l'altro lavorava proprio sul suono interno del Santa Lucia, dell'aula absidale di Santa Lucia. Qua Beius lavora su quello che è l'oggettualità e la sonorità che questa comporta appunto nell'interazione con questi oggetti sparsi in sette camere e poi microfonati e tutti poi ricondotti a un'unica fonte sonora in un lavoro di post-produzione. Per quanto riguarda una parte del disco, poi altre cose che sono legate a Block Beius, questo bel CD di At Art, celeberrima, insomma, forse un po' troppo celeberrima, comunque famosa nell'ambito dell'arte d'avanguardia per dischi, ad esempio come Treat Eyes di Cardio, quindi insomma, un'etichetta piuttosto attenta alle avanguardie, neoavanguardie, eccetera. Quindi da Terry Fox, chiusura in prima parte, a Joseph Beius e al suo appunto trattamento anti-accademico, un suono che va anche tante volte a infastidire. In effetti poi questa sera si sperimenta anche, poi lo state sperimentando di fatto, un altro tipo d'ascolto, visto che poi non c'è l'installazione, non siete dentro alle situazioni che magari vengono anche costruite da questi artisti, e proprio questo invisibile probabilmente che può rendere interessante la sperimentazione proprio dell'ascolto, e quindi un invisibile che può dare insomma suggestioni, proprio sonorità che in realtà sono insomma, anche piuttosto durette da affrontare così, ma appunto cercate di immaginare oppure di tuffarvi dentro una situazione che è vissuta in realtà dentro degli spazi e che può essere appunto fonte di ascolto diverso, perché è tolta da quel momento appunto installativo, creativo, artistico. Perfettamente giusto quello che stai dicendo, infatti è un po' una sorta di immaginazione degli spazi installativi che potrebbero essere connessi all'ascolto prettamente sonoro che avete in questo momento a livello radiofonico. E il prossimo autore è un autore che piuttosto, anche questo non particolarmente conosciuto, ma insieme ad un altro personaggio invece che è piuttosto conosciuto nell'ambito di 451 frammenti sonori e in una certa musica contemporanea e sperimentale. Si tratta di Lionel Marchetti, che spesso ha attraversato 451 frammenti sonori insieme a Yoko Higashi, etichetta musica genera che si occupa di improvvisazione, anche in alcuni casi rumorismo, sound art e tutto ciò che riguarda, comunque estremamente legata a un'idea del suono, dunque un'attenzione particolare all'aspetto sonoro. Etichetta che ha fatto uscire questo disco nel 2009, Okura 73N42E, Yoko Higashi e Lionel Marchetti, che realizzano tre piece estremamente interessanti, muovendosi all'interno di una certa sound art anche molto connessa a una certa musica concreta che spesso si interfaccia con la sound art. Anche lì potremmo aprire scusate, dei capitoli abbastanza impegnativi di analisi rispetto a quello che significa poi sound art. Ne parlavamo anche prima della messa in onda della trasmissione io e Max, e c'è sicuramente anche un po' di discutibilità di questa accezione, proprio per il fatto che poi sembra che il suono, l'arte del suono, sia connessa soltanto a questo tipo di approccio sperimentativo o comunque compositivo o espressivo. In realtà poi la musica sperimentale abbraccia tantissime altre forme di sound art, dunque è anche abbastanza opinabile questo tipo di catalogazione. Dovremmo aprire veramente una discussione abbastanza lunga. Ci siamo comunque soffermati in quello che è stata definita sound art dai critici, da alcuni musicisti del settore, per catalogare questo tipo di sperimentazione che stasera stiamo frammentariamente inserendo in scaletta. Al di là di questo tipo di analisi, andiamoci ascoltare a questo punto questo lavoro molto interessante, dove i Gasci e l'Anna Marchetti lavorano su una traccia dove lo stesso i Gasci utilizza la propria voce filtrandola, facendola quasi diventare una voce fantasma sotto traccia, anche abbastanza ispida, urticante nel modo in cui viene sonorizzata, all'interno di un tappeto sonoro estremamente efficace, estremamente ricco anche di frequenze e di colori, che elabora una sorta di trattamento sonoro ambientale, mixato anche ovviamente a un trattamento ex post attraverso una digitalizzazione del suono. Ce l'andiamo a sentire? Dunque, Yoko Gasci, Lionel Marchetti, il brano è Petrol 42. I don't know. Yes. E siamo rientrati in diretta, abbiamo mixato, chiaramente l'avrete, chissà se l'avete notato, però è successo, e abbiamo praticamente mixato il disco che abbiamo presentato di Yoko Higashi con Lionel Marchetti, con il successivo lavoro, splendido veramente lavoro, di Olivia Bloch, autrice che lavora da anni nella sound art, ma non solo, comunque una grande sperimentatrice nell'ambito del suono, anche molto attenta a tutte le sperimentazioni connesse alla musica elettronica. In questo disco, che appunto lavora molto bene sulla matrice sonora, ma è anche molto attento a degli aspetti quasi armonici e compositivi. Nel caso in questione, il brano che abbiamo ascoltato apre in alcuni momenti, come nella parte finale, con delle vere e proprie orchestrazioni che ricordano anche per certi versi le grandi composizioni, mi viene almeno a memoria, mi ricordano assolutamente i lavori ad esempio di Odissea 2001, Odissea nello spazio, sì, archi e queste armonie estremamente suggestive, potenti anche, che insomma Ligeti aveva squarciano quasi la composizione, La composizione, aprono una sorta appunto di squarcio e creano una dimensione estremamente suggestiva. E il disco in questione è uscita per la Sedimental, è V2 dell'ottobre 2006, uno splendido lavoro estremamente astratto, ma anche attento degli aspetti estremamente concreti, con dei suoni che si mixano appunto in maniera assolutamente geniale a altre dimensioni sonore tratte da microfonazioni ambientali, ma non solo, come avrete notato, questo synth orchestrato che appunto riesce assolutamente a rendere suggestiva l'intera composizione. Olivia Bloch, dunque, l'abbiamo ascoltata da l'etichetta Sedimental, l'album EV2 uscito nella fine del 2006. E adesso andiamo a scoprire invece un altro personaggio che abbiamo connesso anche a Olivia Bloch non a caso, un personaggio che penso sia la prima volta che andiamo a presentare all'interno di 451 frammenti sonori. Sì, compositore che non da molto tempo si dedica, appunto, compositore inglese, non da molto tempo, più o meno insomma la discografia con il primo CDR ci riporta al 2008, Patrick Farmer, si dedica appunto a un suono decisamente riflessivo dentro l'esplorazione dello stesso, in effetti Farmer con oscillazioni e con le modulazioni cerca di costruire una vera e propria scultura sonora. In effetti poi il titolo, anche il sottotitolo della trasmissione stasera, è proprio quello della scultura sonora, un suono anche decisamente potremmo dire costruttivista, se il termine non ci riportasse immediatamente insomma al futurismo e all'avanguardia russa. Ma con Farmer in effetti si ha questo suono che si erge molto, molto forte a livello appunto di struttura, di costruzione, che così a primo ascolto può sembrare abbastanza fermo, in realtà smuove, e come, per questo si potrebbe anche avvicinare alla drum music appunto come aspetto così iniziale, poi in realtà dentro ci sono queste strutture appunto che riescono a muoversi, appunto a costruire in divenire attraverso appunto la trattazione del suono. Patrick Farmer. Beh, finisce con un suono di certo non particolarmente comfort, quello di Patrick Farmer, bello veramente, comunque un lavoro sì difficile d'ascolto, ma appunto avete sentito come riesce quasi a accompagnare di fatto dentro questo mondo sonoro, costruendo appunto e stratificando delle sonorità anche piuttosto difficili appunto nell'ascolto, ma anche molto, molto generose per quanto riguarda appunto un viaggio dentro un mondo sonoro decisamente evocativo, quello di Farmer, appunto con tutte queste oscillazioni, queste rumorismi che si vanno a intersecare con le sue manipolazioni. E, Patrick Farmer, appunto, che abbiamo preso da un pezzo tra l'altro dedicato a un altro sound artist che è Jeff Jarman, tra l'altro, e così faccio pubblica ammenda, ringraziamo la nostra ex collaboratrice Margherita che manda un messaggio a me, appunto a Max, personalmente, dicendo effettivamente non si può sentire Beius, sì, faccio ammenda, Boyce, Joseph Boyce, perdonatemi, per ben due volte l'ho detto, però no, tant'è che insomma faccio pubblica ammenda, sono scusato, risalutiamo anche Margherita Scarano, ex collaboratrice di 451 Frammenti Sonori. Bene, andiamo a... Tu mi perdoni? Io sì, assolutamente, perdoni, sempre ti perdono. Ecco, allora, andiamo a presentare invece il prossimo autore, che è un progetto, Sillick, costituito da un personaggio che abbiamo tante volte inserito negli ultimi anni, Eric Lacasà, che lavora un po' sulla sound art, ma anche sulla musica concreta, insieme a Sylvie Laroche, che hanno elaborato questo disco già, insomma, da parecchio tempo, insomma, uscito nel 1992, molto suggestivo, che rientra pienamente dentro il discorso della sound art. Comme Icar, tu sei francese, dunque... No, se ho sbagliato pure il tedesco prima. Vabbè, ma insomma, io non lo so pronunciare. Vediamo. Comme Icar. Ecco, vediamo. Comme Icar, ti piace. Ok, beh, bravo. E Sillick, che oltretutto ha collaborato anche con grande Jim O'Rourke, che in un disco uscito sempre nel 92, e anche con altri autori e musicisti e sperimentatori della sound art, soprattutto in terra francese. Ce l'andiamo a sentire, dunque, il disco del 92 uscito per la musica Maxima Magnetica, e andiamo ad ascoltare una traccia da questo album. Straordinario veramente questo brano, un finale forse assolutamente col botto, potremmo dire, nel senso proprio anche sonoro del termine. Splendido questo lavoro di Sillick, che è appunto uscito con un'etichetta oltretutto storica anche della musica industriale, Musica Maxima Magnetica Italiana di Firenze. Uno splendido lavoro. Abbiamo ascoltato Onir e poi subito dopo Anatem, che appunto rappresentava forse l'anatema che ti lanciava Jules LaRoche, che collaborava in questo disco. Anche un po' pericoloso lanciare così, eh? Sì, sì, era un po' inquietante, però questa battuta estremamente ritmata e molto molto tributaria di una certa industriale, un bellissimo discolo. Ma anche un po' discolo, anche un po' discolo, disco. Bene, abbiamo chiuso con Silly, che adesso andiamo a ripercorrere il percorso. Chris Watson, Peter Cusack, Nicola Sani e Terry Fox la prima parte, Joseph Beuys. In realtà era un modo, capito, per riscusare ancora, capivo, i sensi di colpa, sì, anche perché poi, capito, poi dopo non dormo stanotte. Guarda, saresti capace secondo me, vabbè. Yoko Higashi, Olivia Block, Patrick Farmer, lo splendido Sillick con questa splendida, come si chiama lei? Lei si chiama Jules LaRoche. LaRoche, che ricorda Sylvie LaRoche, che ricorda un incrocio tra la Yoko Ono e la Diamanda. Diamanda Galas. Bene. Salutiamo, ovviamente. Vi lasciamo col nastrone, insomma, secondo me non sarebbe da da ascoltarlo. No, dopo ma la trasmissione no, genere, non lo recuperiamo, no, più, non lo recuperiamo più, volevamo mettere il brucio d'alla. Preparatevi al solito nastrone che è un po' pericoloso perché dopo la trasmissione del genere è un po' il tuffo nel vuoto, ecco. Vedete voi se volete così delirare, proprio un salto astronomico. Vi salutiamo e vi aspettiamo per domenica prossima, chiaramente sempre sulle frequenze di Radio Città del Capo, 451 Frammenti Sonori. Vi saluta e vi augura la buonanotte. Un saluto da Max Macchia e da Eliseo Scarpa. Ciao.